Kellogg, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Adam Lamza era cresciuto in questa cittadina da cartolina del Connecticut. La domanda il giorno dopo è solo una: perché lo ha fatto? Forse, dicono alcuni, affetto da una leggera forma di autismo. Adam Lamza si sa poco, silenzioso, vestito bene, sempre solo. Non aveva amici e faceva di tutto per passare inosservato. Probabilmente soffriva della sindrome di Asperger. Una certa fragilità psicologica del ragazzo, che forse era anche affetto da una forma di autismo non grave. Quella di Newtown, la prospera cittadina del Connecticut, che un tempo era conosciuta come la quinta più sicura degli Stati Uniti, è una comunità distrutta dalla disperazione. La strage compiuta venerdì dal ventenne Adam Lanza, in cui hanno trovato la morte 20 bambini e 6 adulti... È accaduto qualcosa di particolare nella terrificante notizia, che ormai tutti conoscono nei minimi particolari, in questi ultimi due giorni. E in particolare, oltre a riflettere sul caso di Adam Lanza, vorremmo riflettere su una particolare maniera che, attraverso cui è stata data questa notizia. Avete già sentito nella copertina, ha parlato la dottoressa Olivero Ferraris, ha parlato un giornalista di una testata televisiva. È stato associato la sindrome di Asperger o l'autismo al fatto che Adam Lanza avesse ucciso 26 persone più se stesso. Questo ha naturalmente determinato una reazione immediata da parte di tutte le persone, sia negli Stati Uniti che in Italia, in particolare l'ho registrata. Hanno un contatto diretto, in Italia sono 360.000 famiglie con la sindrome dell'autismo, e hanno detto: ma come? Già abbiamo tanti problemi, già ogni giorno dobbiamo combattere con un'infinità di difficoltà, con l'abbandono, la solitudine, con una persona di cui ci dobbiamo occupare in prima parte noi, perché non esiste una efficiente rete di assistenza e di idea semplicemente di tutela di una persona autistica, una persona molto fragile che ha bisogno di un'assistenza continua 24 ore su 24. Dobbiamo anche sentirci vittime del pregiudizio delle persone, guarderanno il nostro figlio e diranno: ma stiamo attenti, nella classe c'è un autistico, potrebbe prendere un mitra e ammazzare le persone. Vi leggo qualche titolo che ha determinato l'idea di fare questa trasmissione questa mattina. Strage USA, il killer era affetto da autismo, 20 bimbi morti. Massacro nella scuola elementare, il killer soffriva di autismo, è un altro titolo di giornale. Strage di Newtown, il killer era affetto da autismo, aveva 6 armi in casa, l'America si interroga. Il mondo piange, i bambini in Newtown, il killer ex alunno autistico. Era autistico, la madre lo educò a sparare, l'ultimo titolo che ho visto in un giornale di ieri. In cosa si riassume invece la notizia? Adam Lanza alle 9 di mattina di venerdì esce di casa dopo aver ucciso la madre, alle 9.30 arriva alla scuola elementare di Sandy Hook, entra, forza il blocco, comincia a sparare, alle 9.36 ha già ammazzato i 20 bambini, ha già ammazzato i 6 adulti, alle 9.38 ha ammazzato anche se stesso. Questa è la notizia, poi il resto sono supposizioni. Questa mattina noi vorremmo dare voce a tutti quelli che sono sentiti giustamente indignati in questi giorni, alle associazioni, ai genitori, alle famiglie, e riportare sul campo della verità e della correttezza questo tipo di informazione. Chi fosse in qualche maniera interessato a partecipare e contribuire a questo dibattito, il numero è sempre lo stesso, 800 24 00 24. Negli Stati Uniti l'FBI ha coniato un termine apposta: school shooter, pistolero della scuola. Sono centinaia ogni anno i casi di violenza nelle scuole, una scia di sangue che non ha confini di stato né di ceto. 17 aprile 2007, Blacksburg in Virginia, 2 distinti attacchi nella stessa giornata nel campus del Virginia Tech. Seung Hui Cho, studente di origine coreane, uccide 32 persone e ne ferisce molte altre. A ciò era stata diagnosticata una forma grave di disturbo d'ansia. Pochi mesi dopo, a novembre, uno studente di 18 anni apre il fuoco nella sua scuola di Tulsa, uccidendo 8 persone. La mattina dell'incidente aveva pubblicato un video su YouTube in cui annunciava il massacro. Stessa dinamica del Virginia Tech, ma Illinois University, di 14 febbraio del 2008. 800 24 00 24. Perché quando si danno notizie, quando si riflette su eventi di cronaca che in realtà hanno una loro particolare complessità, si è così tranchant, così superficiali nell'affibbiare una o l'altra sindrome al protagonista, a l'attore principale di queste vicende. Questo probabilmente a chi non è sfiorato dal problema direttamente sembrerà vabbè, una inesattezza come tanta. Avranno visto la prima agenzia di stampa che ha citato il termine autistico associandolo appunto a Adam Lanza, cosa ci sarà mai di male? Sarebbe stata la stessa cosa che avessero detto, mi sarebbe sembrato strano, era claudicante, aveva un problema alla cistifellea, aveva forti emicranie. Cosa c'entra? Cosa c'entra? Perché poi chi in realtà soffre realmente il problema, vi dico che l'autismo è un problema in cui c'è pochissima informazione. Un paio di mesi fa è stato preso un ragazzo autistico, portato in questura a Verona, gli è stata fatta una TAC per vedere se avesse degli ovuli di droga all'interno dello stomaco, semplicemente perché non si sapeva spiegare. Proprio un paio di settimane fa i giornali hanno sparato tutti in prima pagina che Ruby Rubacuori, la protagonista del processo di Milano legato alle feste eleganti del cavaliere Berlusconi, fosse autistica. Tutti Ruby era autistica. Qualcuno ha riflettuto, sì, ma io ho un figlio autistico, magari avesse modo di fare lap dance, di andare alle feste, di andare in giro per il mondo. Non è così. La protesta delle famiglie ha fatto sì che la psicologa che ha fatto la perizia avesse rettificato, dice: non ho mai detto questo, sono stati giornalisti che hanno capito male, ho detto tutt'altra cosa. Professor Luigi Mazzone, buongiorno. Buongiorno. Luigi Mazzone è un ricercatore del Bambin Gesù, si occupa di neuropsichiatria infantile, in particolare di autismo, ha lavorato 4 anni negli Stati Uniti. Luigi Mazzone, perché è sbagliato dire che Adam Lanza fosse autistico? È sbagliato dire che Adam Lanza fosse autistico perché non c'è nessun nesso tra quello che è successo e la possibilità che lui fosse affetto da una sindrome di Asperger, come è stato detto. Il fatto che lui ipoteticamente potrebbe anche essere stato affetto da autismo, ma ciò non giustifica quello che è stato fatto. L'autismo è una forma, un problema di sviluppo, un disturbo generalizzato dello sviluppo che è considerato in un ampio spettro ormai di patologia. Si è visto che le forme autistiche hanno uno spettro di gravità che va da un alto funzionamento in cui il funzionamento cognitivo è conservato a forme un pochettino più gravi. E le persone affette da questo disturbo sono persone che necessitano di assistenza, necessitano di programmi speciali veri e propri, e solitamente sono persone che non sono in grado di concepire un piano sociale che potrebbe portare a quello che è successo negli Stati Soprattutto Uniti. Soprattutto prendere un'automobile e fare 150 chilometri alla ricerca di una persona da uccidere, poi tornare indietro, entrare in una scuola, prendere delle armi. Sono altri fatti. Vittorino Andreoli, che è un neuropsichiatra, si è occupato di tutti i più famosi casi criminali degli ultimi anni. Nel Corriere della Sera, per fortuna, ieri l'altro dice: è un gesto folle, dice, ma finora non sono stati riferiti segni di patologia mentale. È un paradosso che non stupisce, perché oggi, al tempo presente, si giunge alla follia più estrema partendo dalla normalità. Per la conoscenza che lei della cura e dell'attenzione alla patologia negli Stati Uniti, un ragazzo di 20 anni autistico che non ha mai avuto una cura o perlomeno nessun tipo di verifica, è possibile? Ma intanto secondo me c'è da fare una prima precisazione. Si ipotizza, stiamo veramente costruendo un palazzo sul nulla. I titoli l'hanno dati tutti per scontato per 2 giorni. Sì, ma sul nulla, cioè nel senso fu una dichiarazione di un compagno che ha forse riferito che Adam forse fosse autistico. Non c'è un referto sanitario, non c'è una dichiarazione dell'ospedale, non c'è una dichiarazione di nulla che certifica che Adam avesse questa patologia, per cui intanto c'è una superficialità dei mezzi di stampa che hanno dato questa informazione, e questa informazione si è amplificata e si è ingrandita a dismisura in modo, scusate, vergognoso, andando veramente a incidere poi su quello che sono le famiglie. E se mi posso permettere, anche il fatto che si dà la possibilità alle associazioni di famiglie di prendere le distanze da queste notizie forse già è un fatto discriminatorio per sé. Voglio dire questo, tutti ci dovremmo indignare di fronte a questa notizia, non solo le famiglie, l'ANSA o altre associazioni di famiglie, perché il fatto di dire che l'associazione delle famiglie e genitori soggetti autistici prende le distanze è, come dire, è una possibilità. Loro prendono le distanze e noi riportiamo il fatto di cronaca. Infatti è la difficoltà che una volta messa nel circolo notizia del genere, anche semplicemente prendere le distanze significa in qualche maniera essere discriminati. Io posso citare l'associazione degli avvocati americani che si occupa appunto dei soggetti autistici, che immediatamente ha risposto, ha detto: fra autismo o altre disabilità e violenza non esiste nessun rapporto, soprattutto gli autistici americani, i soggetti con disabilità, non sono più inclini a commettere atti violenti rispetto ai non disabili. E poi ci sono state l'associazione attualmente degli Asperger italiani, l'associazione dei genitori autistici, sono stati costretti comunque a fare un'operazione di rettifica che comunque fa sì che, anche se oggi ne parliamo, il vulnus, il danno, resiste a tutti gli effetti. Volevo portare in campo un altro esperto in queste questioni, Giuseppe Neri, buongiorno. Gianluca, buongiorno. Giuseppe Neri, voi lo conoscete che spesso ha questi microfoni, è presidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. L'ho sottratto dalla sua azione di vigilanza al San Filippo Neri a Roma, che passa un momento particolare. Giuseppe, cosa sta succedendo? Beh, piccolo flash, perché parlavi del mio ospedale, il commissario Bondi è laureato in chimica, probabilmente dovrebbe sapere che se mescola la glicerina col trinitrato, la miscela che ne viene fuori non è facilmente maneggiabile. Quindi vedremo da oggi pomeriggio in poi cosa ne verrà fuori. Siete sul piede di guerra al San Filippo Neri. Difendiamo la sanità pubblica rispetto alla sanità privata, che vorrebbe essere il modello per l'assistenza ospedaliera in questo paese. Ecco, riguardo al problema di questa mattina, Beppe, quanto il disagio psichico o psichiatrico è stato nel tempo associato a eventi criminosi? Ma io condivido quello che diceva il professor Mazzone, con tutta la stima e l'amicizia che posso portare a te, che sei un giornalista professionista, penso che i media abbiano delle responsabilità molto gravi. Io ho preso appunti da quello che voi riportavate: fragilità psicologica, incura per depressione, forma grave di disturbo d'ansia. Queste, nella migliore delle ipotesi, sono delle cosmesi lessicali, dei veli pietosi che vengono stesi di fronte a condizioni, parlo di situazioni italiane o altrove, che se inquadrate adeguatamente avrebbero portato, a mio giudizio, se pecco di presunzione, verrò smentito, nell'ambito delle psicosi. Secondo, in America uno dei motivi per cui alcune cose accadono, dal mio punto di vista, è che quella rete di servizi che è le cure primarie, soprattutto in ambito psichiatrico, semplicemente non esiste. La capacità di intercettare precocemente alcune forme di psicosi è molto più difficile che altrove, e i dati della letteratura ci dicono che in alcune circostanze il 61% degli omicidi che si realizzano in corso di malattia psicotica avvengono prima che venga diagnosticata, o quello è il primo segno che porta poi la persona all'attenzione di chi se ne deve occupare. Quindi pensiamoci, perché sono cose molto selettive, molto precise, lontanissime, come diceva giustamente Mazzone, dalla sfera autistica, ma che per la casalinga di Voghera e il pastore Lucano possono fare parte del gran tritacarne di quelli un po' matti. Stiamo molto attenti a classificare correttamente le cose. Mi scrive una madre dicendo: già successo una volta un disastro nella mia scuola, perché mio figlio ha tirato un astuccio in un momento che era particolarmente eccitato, figlio autistico, verso un altro ragazzo. Non vorrei che questa mattina pensassero fosse capace di fare una strage. Enrico, buongiorno. Sì, buongiorno. Salve, sono Enrico, chiamo da Rimini. Sono il presidente di un'associazione di genitori. Naturalmente tutti quanti hanno visto anche sui social network il dibattito. Io penso che il vero problema sia una mancanza nostra delle associazioni. Siamo noi che abbiamo fatto poca informazione, siamo noi che non abbiamo permesso alle persone di poter giudicare questa notizia come una notizia trash. Assolutamente, quindi io farei più un'autocritica come associazioni, direi impegniamoci di più per il futuro, perché tutti abbiano gli strumenti per dire: questa è una notizia falsa. Ecco, questo volevo dire. Diciamo che facendo parte della categoria, nel mio piccolo l'ho fatto, mi sembra aver fatto già abbastanza casino questo fine settimana, poi sono mosse anche le associazioni. Devo dire qualcosa, Mazzone? Sì, autocritica è encomiabile quello che dice il signore, in parte forse anche giusto, è anche vero che non è facile parlare quando non si dà la possibilità di parlare. Io vedo spesso programmi TV, vedo spesso pagine di giornale piene di solidarietà nei confronti di patologie che hanno un impatto epidemiologico ben più lieve dell'autismo, e quando è di autismo se ne parla veramente da poco, per cui associazioni di famiglie non sempre in passato hanno avuto la possibilità di esprimersi e di portare alla luce quelle che sono le reali esigenze delle famiglie, solo forse negli ultimissimi tempi, e nemmeno tanto in base a quanto è veramente grande e diffuso il fenomeno. Non è una sindrome rara, mi sembra che nasca un ragazzino. Siamo a 1,88. Ogni 88 bambini nasce un autistico, è la prima causa di handicap, più della cecità, la sordità, la sindrome di Down messe tutte assieme, quindi è un problema emergente, grosso. Però magari se, con tutto il rispetto anche per altre patologie, anche neurologiche, neurodegenerative, se un calciatore, cui a tutto rispetto ovviamente, ha una patologia neurodegenerativa, ne parlano tutti i programmi di informazione perché fa più di impatto mediatico, il che è un po', rimanendo nel rispetto di qualunque problematica, è un po' un controsenso, perché là l'epidemiologia è 1 su 20.000 e se non di più qua siamo a 1,88, il che è... Fabio, buongiorno. Buongiorno. Io chiamo da Treviso e volevo intervenire sull'uso del termine autismo, che secondo me è fonte di infiniti equivoci. Prego, la sto ascoltando. Il termine autismo è stato inventato da uno psichiatra svizzero all'inizio del Novecento, si chiamava Eugen Bleuler, nell'ambito della schizofrenia, che era ciò di cui si occupava Bleuler. Quindi autismo come qualcosa che riguarda un gruppo di schizofrenici particolarmente ritirati in se stessi e che non comunicano con il mondo, ma è una psicosi. Mentre poi Kanner, che è lo studioso che ha determinato la grande svolta nel 40-41, ha usato il termine autismo in riferimento a un gruppo di bambini che hanno una disabilità. Andiamo al punto, lei ci sta facendo la voce Wikipedia su autismo, vorrei capire il nesso del suo intervento. Ma il nesso è che uno schizofrenico che compie un omicidio viene definito autista. Ma lei è un neuropsichiatra, Fabio? No, io non sono un neuropsichiatra, sono il papà di un ragazzino autistico che però da anni si occupa di questa problematica e è arrivato alla conclusione che c'è un equivoco di fondo. E come vorrebbe chiamarlo suo figlio? Come vorrebbe chiamarlo suo figlio? No, io non saprei, ma probabilmente che so, una personalità stereotipoide o che so io. Ma certo, le cambierebbe un unico termine per due cose diverse. Sì, ma le cambierebbe la sua vita quotidiana se dicesse suo figlio una persona stereotipoide invece di autista. Ma non cambierebbe la mia vita quotidiana, ma cambierebbe l'informazione, però, perché se tu chiami autistico sia uno schizofrenico che uno dei... Ma io non credo che nessuno chiami uno schizofrenico autistico. Guardi, io penso, la capisco, la comprendo e condivido la sua situazione. Però lasciamo ognuno fare il suo mestiere, pensiamo ai nostri figli, ma non improvvisiamoci in campi che non sono i nostri. Pasqua Stella, buongiorno. Signora Nicoletti, buongiorno. La cosa interessante che non vedo ancora fatta, spero, è io quando vado in banca, qualsiasi banca in Italia io vada, in Veneto da qualsiasi parte, finanzio le armi. Ci sono le banche armate, ci sono le lobby delle armi. Negli Stati Uniti una mia collega mi ha detto che addirittura sulla Costituzione c'è scritto il diritto del cittadino o della cittadina ad avere armi per difendersi, e dunque prendere dalla parte di un bambino questa responsabilità. La responsabilità è nostra, è di tutti gli adulti, anche noi mamme quando regaliamo i fucili. Comunque, io non so, lei mi ha regalato un fucile a suo figlio? Mai da bambino. Sì, ma a meno che non ci sia un padre particolarmente appassionato di caccia, non è nei nostri costumi regalare un fucile ai figli. No, io le dico quello che ho capito io con la mia famiglia e i miei figli, il fatto che noi andiamo a finanziare le armi semplicemente andando in qualsiasi banca, dai Kalashnikov alle bombe a mano. Beh, signora, dilatiamo troppo il tema. Adesso quello che dice lei può avere un margine di credibilità, ma non c'entra nulla con quello che stiamo dicendo questa mattina. Il fatto reale e concreto che forse lei sfiora è che questo ragazzo avesse un fucile d'assalto, una pistola semiautomatica Glock, una pistola Sig Sauer, che sono armi molto efficienti e molto letali, e la mamma le tenesse dell'armadietto. Avevo scorto un annuncio sul giornale locale del Michigan che diceva che aprendo un conto alla North Country Bank, la banca ti regalava un fucile. L'impiegata mi spiega che facendo un certificato di deposito avrei potuto ritirare una delle 500 armi da fuoco che custodiscono nella camera blindata, con tanto di autorizzazione. Ma la sola ragione di esclusione è l'essere stato dichiarato minorato psichico. Quindi è escluso solo un minorato psichico, ma non un criminale. L'impiegato che mi consegna il fucile mi assicura che il meccanismo è perfetto, va sempre a segno, ne ha uno anche lui. Questo è Michael Moore del suo famoso film Bowling for Columbine, che è dedicato nel 2002, dedicato proprio alla strage nella scuola, che va in banca e come apre il conto gli regalano un fucile. Può sembrare qualcosa di singolare le nostre latitudini, ma probabilmente è perfettamente normale in quello stato, in quel particolare situazione. Questo è uno dei problemi che in realtà andrebbero toccati rispetto a quello che ancora è stato detto in maniera superficiale riguardo al fatto di Adam Lanza. Professor Fabrizio Tonello, buongiorno. Buongiorno. Il professor Tonello è docente di scienza politica all'Università di Padova, dove tiene un corso sul sistema politico americano, ha curato un libro sulla Costituzione degli Stati Uniti per Bruno Mondadori, ha un blog anche sul Fatto Quotidiano. Rispetto all'ennesimo episodio di strage nella scuola e al fatto che ancora si parli di problemi politici legati al famoso secondo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, ecco, qual è la situazione soprattutto nel luogo fisico e geografico in cui è avvenuta la strage? Beh, il problema non è il Connecticut o la California, il problema è che da anni esiste una campagna che ha avuto molto successo dell'associazione dei proprietari di armi, che si chiama National Rifle Association, per impedire al Congresso e agli enti locali di varare delle legislazioni significative sul controllo delle armi. La Corte Suprema ha accettato questo punto di vista, ricordiamoci che è una Corte Suprema che ha una maggioranza fortemente conservatrice, che conservatrice negli Stati Uniti vuol dire in realtà il estremista di destra, e la Corte Suprema in due sentenze, una del 2010 McDonald contro Chicago e l'altra del 2008 District of Columbia contro Heller, ha stabilito che il diritto a tenere armi in casa è un diritto individuale che non può essere violato. Fermiamoci un secondo, professore, devo dare l'informazione della borsa, è molto interessante. Già stanno cercando di puntualizzare molti ascoltatori, cioè il fucile d'assalto era solo nell'aspetto, era semiautomatico, quindi non sparava raffica, quindi poteva tenerlo la madre nell'armadio, e quindi per ammazzare i 20 bambini ci ha messo il tempo di pigiare 20 volte il grilletto, non ha sparato un'unica raffica. Questo è il senso del messaggio del nostro ascoltatore. A tra poco. Melog, la realtà condivisa. Nella mia città, Flint, nel Michigan, un bambino di 6 anni della prima elementare della scuola Buell aveva trovato una pistola a casa dello zio, aveva portato la pistola a scuola e sparato a un'altra alunna della prima, Kyla Roland, di 6 anni. Il proiettile le aveva attraversato il corpo, era caduta a terra ed era rimasta lì, mentre la sua maestra chiamava il 911 per chiedere aiuto. Nessuno sapeva perché il bambino avesse sparato alla bambina. Come se la città non avesse avuto abbastanza orrori e tragedie negli ultimi 20 anni, ora poteva vantare un nuovo record, la più giovane sparatoria degli Stati Uniti. La mattina del fatto ci volle solo mezz'ora perché gli elicotteri... Questo è sempre Michael Moore che parla di un episodio accaduto di un bambino che a 6 anni ha preso la pistola, è andato a scuola e ha sparato, ma sono tanti questi giorni, tutti i giornali hanno fatto una retrospettiva sugli omicidi seriali fatti da persone... fra virgolette perfettamente normali, che avendo a disposizione armi da fuoco in quantità a volontà hanno fatto stragi, cominciando il 14 dicembre 1993 Aurora in Colorado, un 19enne ammazza 3 adolescenti, la fase di Columbine, il 20 aprile 1999 2 studenti del liceo di Columbine in Colorado ammazzano 12 compagni e un professore, Virginia Tech il 17 aprile 2007 un killer fa fuoco su un istituto scolastico mentre sono in corso le lezioni e ammazza 32 persone. Nell'Ohio, il 27 febbraio 2012, un altro ragazzo spara 5 colpi in una caffetteria e ammazza 3 persone. A Oakland, il 2 aprile 2012, un ex studente entra in un'aula in un'università e ammazza 6 persone in California. E poi l'ultima, il 20 luglio 2012, lo ricordate, alla prima del film di Batman, in un cinema in Colorado, 12 morti e 58 feriti da un signore vestito da Joker, il nemico numero uno di Batman. Marco, buongiorno. Buongiorno. Allora, grazie, complimenti. Secondo me il problema è quello che ha ribadito lei adesso ed è in realtà lampante, evidente, cioè poi avete voi sfruttato giustamente l'opportunità per parlare anche di autismo e di quel tipo di problema che è parimenti importante, ma il focus della cosa è semplice, secondo me, quanto agghiacciante. Guardi, ne avremmo fatto volentieri a meno, ne abbiamo parlato perché dopo 2 giorni che si vedono telefonate, proteste in rete di genitori di autistici che dicevano ma scusate perché ci tirate in ballo in una cosa già così triste, tra la quale siamo profondamente addolorati, sembra quasi che ci sia un nesso fra l'autismo del soggetto, che poi non è stato mai diagnosticato, mai accertato, e la strage. Credo che sia una ipocrisia di comodo, no? Come spesso accade in queste cose, dire che in realtà è un problema culturale profondo di un paese come gli Stati Uniti che non accetta il fatto che, insomma, comunque non vuole dire, ecco, se io voglio un'arma non posso, se ho una certa età o cose di questo tipo, adesso non entro nel merito, ma preferisce dipingere di volta in volta cose di questo tipo con patologie, con problemi, con cose, diciamo, che, come dicevate voi, mettono un velo sopra un problema che in realtà... Diciamo che assolve un po' tutti, rende anche più facile dare la notizia, dire ma era una persona spostata, piuttosto che sviscerare nella profondità il problema delle armi, che stavamo toccando con il professor Fabrizio Tonello, che ricordo che insegna scienza politica all'Università di Padova e ha anche un corso sul sistema politico americano. Professor Tonello, ci eravamo interrotti, in particolare quello che dice l'ascoltatore, secondo lei ha un suo nesso, è molto, assolve molto di più la coscienza generale, non soltanto degli Stati Uniti ma anche nostra, dire che in effetti aveva dei problemi psichiatrici piuttosto che dire aveva una madre con un fucile mitragliatore e 2 pistole dentro l'armadietto. Certo, ma io sono assolutamente scandalizzato dal modo in cui si è parlato e si parla di questa strage, come del resto le precedenti, perché il problema non è diagnosticare l'eventuale malattia psichiatrica del colpevole, il problema è come sia possibile che ci siano 300 milioni di armi da fuoco in circolazione in un paese che ha 300 milioni di abitanti. Questa mattina ho visto un pezzo che faceva una statistica paradossale, forse se non fosse così amara sarebbe divertente. Ci sono più vendite libere di armi negli Stati Uniti che caffetterie di un certo brand molto noto negli Stati Uniti. Sì, ma certo, il problema è che il Congresso e la stessa Presidenza Obama non hanno mai voluto affrontare il problema delle armi, perché è un problema scottante, che significa misurarsi con una lobby molto potente che è riuscita negli scorsi anni a sconfiggere con i propri finanziamenti tutti i candidati a cariche pubbliche che proponevano una regolamentazione. Infatti, guardi, oggi Obama va alla veglia funebre, ha partecipato, subito è stato presente, ma ha molto glissato sull'aspetto delle armi. No, ma infatti da questo punto di vista Obama è un'immensa delusione. Il sindaco di New York, Bloomberg, che pure è un repubblicano e quindi dovrebbe essere un suo oppositore, ha preso l'iniziativa ha detto ripetutamente che Obama non deve piangere di fronte alle vittime, ma fare qualcosa per una regolamentazione delle armi, se necessario, aprendo uno scontro politico che invece Obama fin qui non ha mai voluto sostenere. Ma io vedo che in generale, professore, non voglio sembrarle cinico, è chiaro, ognuno fa il suo sporco mestiere, ma sembra quasi che sia virata l'informazione sui paginoni con tutte le foto strazianti dei bambini, con i fiori, con gli orsacchiotti, con i giocattoli, con il dolore, con le veglie funebri, ma non si tocca a fondo il problema. Beppe Neri, Presidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri, esiste una sorta di coscienza collettiva che trova delle forme di elaborazione più facili nello struggersi per le giovani vittime piuttosto che andare a fondo del problema? No, io stavo riflettendo per quello che diceva il nostro ascoltatore, quello che diceva il professor Ottonello. Io penso che se fosse stato a tre pioppi sul Volturno in un paesino dell'Aspromonte, questo ragazzo avrebbe semplicemente ammazzato sua madre, come fanno tanti giovani psicotici. Il problema, che si chiama National Rifle Association negli Stati Uniti, è che Mrs. Lanza aveva il fucile d'assalto, la Glock e la Schlager in casa, e che Romney, ma i repubblicani, hanno avuto milioni di dollari per poter sostenere questa campagna. Allora, si può fare tutta la psicopatologia clinica che si vuole, però il contesto diventa determinante per la dimensione del problema, perché l'accesso a strumenti di morte come armi automatiche cambia in maniera pesantissima la dimensione dell'agito di questa persona. Benedetta De Martis, buongiorno. Buongiorno. Benedetta De Martis è presidente dell'ANCSA di Novara, che è una delle associazioni più frequentate di genitori di soggetti autistici. Come avete preso voi questo tipo di notizia? Come siete mossi, visto che un ascoltatore ha telefonato, ha detto non siamo stati noi abbastanza bravi nel comunicare ai mezzi di informazione negli anni qual è il tipo di disagio, e quindi oggi ci dobbiamo beccare questa forma di discriminazione. Sei d'accordo? È vero, sono d'accordo. Non siamo stati bravi noi, o continua a persistere una grande confusione su questa patologia, e di conseguenza quando abbiamo sentito quelle affermazioni con la parola autismo su una strage avvenuta in America, ci siamo sentiti indignati, offesi. Ho avuto telefonate da tutte le famiglie socie della nostra associazione, perché troviamo inconcepibile che si abbini la parola autismo a stragi compiute da uno psicopatico, io non so definire in altro modo. Anche perché poi ci sarà un problema pratico da affrontare, uno sa esattamente quali sono le difficoltà poi di connessione, di ambientazione, di tolleranza con un soggetto che presenta comunque delle stranezze di comportamento negli ambiti scolastici, negli ambiti del tempo libero, e potrebbero essere cresciute. Professor Luigi Mazzone, ricordo, ricercatore del Bambin Gesù, si occupa di neuropsichiatria infantile, ha lavorato 4 anni negli Stati Uniti e è specializzato in autismo. Anche rispetto a quello che diceva prima quel nostro ascoltatore, esiste ancora una difficoltà nel comunicare in termini concreti e reali cosa si tratti l'autismo? Di che cosa si tratta l'autismo? L'autismo, purtroppo, l'ascoltatore di prima non aveva tutti i torti, nel senso c'è confusione, ha ragione anche la signora in ascoltora, c'è confusione sull'autismo, tant'è vero che in passato è stato associato alla schizofrenia infantile, si parlava di psicosi infantili, è stato dato la colpa alle madri, insomma ne sono state dette tante, purtroppo nella maggior parte tutte queste cose dette erano sbagliate. Ecco, esiste il pericolo di un luogo comune. No, per anni è stata usata una formula orribile per definire una persona quando si vuole insultare se è un mongoloide. Oggi nessuno direbbe più pena appunto doverne rispondere penalmente. Perché? Perché l'associazione Down si è mossa e ha ridato dignità a una patologia. Non è che oggi si comincia a dire autistico anche semplicemente una persona che se ne sta per conto suo perché non ha voglia di parlare, ma quello è un po' autistico e questo è un rischio. Ma è un rischio della sottocultura, è un rischio della mancanza di informazione, potrebbe essere un rischio di una società stupida e superficiale. Tu trovi che in Italia dobbiamo ancora muoverci per rendere anche la classe medica e la psichiatria nazionale che tenga conto del emergere di questa patologia? Ma sicuramente cioè tutti noi siamo incappati in persone che ci guardavano strane, che ci suggerivano strane terapie, che ci hanno fatto perdere tanti anni fuori centro rispetto a quella che è una delle poche maniere per seguire e lavorare su questa patologia. Io penso che l'Italia sia indietro rispetto ad altre nazioni sulla cultura scientifica riguardo l'autismo, influenze di vario tipo, anche di correnti psicoanalitiche e psicodinamiche, ancora in Francia e in Italia hanno una forte influenza, e le società scientifiche purtroppo stanno a guardare, non si muovono abbastanza, e tutto questo ha una ricaduta importante sulle famiglie che poi risentono di questa sottocultura scientifica che esiste. Ecco, noi ci fermiamo un attimo, diamo le informazioni del traffico, vorrei poi riprendere un punto importante che è stato un po' il filo rosso di tutta questa versione, il rapporto fra Adam e la madre. Non a caso esiste ancora un pregiudizio sconfessato da un punto di vista scientifico, che la causa dell'autismo sia la mamma frigorifera, una mancanza di affetto materno. A tra poco. Melog, la realtà condivisa. Stiamo parlando dell'episodio di Adam Lanza, il giovane killer che ha ucciso 26 persone, poi si è ucciso negli Stati Uniti. La stiamo leggendo dal punto di vista di un'informazione che ci è piaciuto questa mattina correggere. I primi titoli dei giornali erano: Adam Lanza era autistico. La conclusione che tutti avrebbero potuto trarre, e per questo ha compiuto una strage. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Ascolto. Volevo solo far notare una cosa che capita quasi sempre in questi frangenti, che è l'immediata disponibilità delle armi, che sia in casa in America. Il problema fondamentale è che in Italia, io sono un possessore di armi, in Italia le armi vanno custodite in una certa maniera, in America probabilmente no. Se io ho un figlio irresponsabile con dei problemi, a maggior ragione dovrò custodire le armi in un determinato modo. A casa mia le armi sono custodite in cassaforte, dove le chiavi le ho solo io, in tasca io. E quindi per estranei, terzi, figli, parenti, l'immediata disponibilità. Mi sembra ci siano delle disposizioni, le pistole non vanno mai lasciate con il caricatore dentro, vanno possibilmente lasciate smontate. Alla fine l'arma è uno strumento, quindi la volontà di uccidere del ragazzo sicuramente è stata facilitata dal possesso e dall'immediata disponibilità di un fucile. Se uno ha le armi e le custodisce in un certo modo, sarà ben più difficile per malintenzionato o per quindi ritorniamo al problema che ha detto prima Beppe Neri: se fosse stato uno psicotico calabrese avrebbe ucciso la madre, magari come spesso accade, ma non avrebbe preso poi le armi e non sarebbe andato a fare una strage. Alberto. Allora, voglio riprendere un po' il discorso dell'ascoltatore che mi ha preceduto. Cioè, voglio spezzare una lama a favore dell'Italia in questo caso, perché in America appunto è una questione di comodo dar la colpa a una presunta incapacità della persona. Qui da noi, ancora quando c'era la leva obbligatoria, una delle condizioni principe per avere il porto d'armi, io ce l'ho da anni, perché tra l'altro sono un ex carabiniere, un ex operatore di polizia locale e quant'altro ho fatto nel passato, per cui sono abbastanza ferrato sull'argomento. Dico che qui da noi è molto difficile che possa accadere una cosa del genere, perché prima ti deve fare la visita il medico condotto, poi c'è il medico dell'USL. Chi non ha conseguito il congedo militare deve andare al tirassegno per conseguire un certificato che lo abiliti all'uso delle armi. Quindi dice esiste comunque, ma questo è logico, il problema è esattamente il contrario. Noi stiamo dicendo che probabilmente per motivi politici che mi sembrano anche abbastanza evidenti, negli Stati Uniti non si ferma questa grande lobby che, basandosi sul famoso secondo emendamento, poi fatto in tempi in cui i coloni dovevano difendersi dalla mattina alla sera, vuoi dagli inglesi, vuoi da altri pericoli, che ogni americano ha diritto a tenersi un fucile. Però volevo tornare un attimo a un problema con il professor Luigi Mazzone del Bambin Gesù, che si occupa di neuropsichiatria e soprattutto di autismo, riguardo al problema della madre. È stato sollevato, si è stato sviscerato il rapporto con questa madre, fanatica delle armi, maniaca delle armi, portava il figlio a caccia, fino a qua ci può anche stare che porti il figlio a caccia, ma pretendeva da lui dei risultati al di sopra della norma. Era un ragazzo che in realtà aveva buoni risultati a scuola, ma questo rapporto alla madre è stato molto esaltato. Anche nell'autismo, il rapporto con la madre fino a qualche tempo fa, ancora qualcuno ci crede in maniera concreta e sottovoce lo dice, c'è questo grande pregiudizio, si ha una colpa da attribuire alla madre. C'era stato per anni il ruolo delle mamme frigorifero che potevano essere causa dell'autismo. Io dico, togliete la laurea ancora a chi crede a queste dicerie, perché non è inconcepibile, è inaccettabile nel 2012, fine 2012, ancora sostenere queste tesi. Il rapporto con la mamma è sicuramente importante, è sicuramente fondamentale. Ma un fattore genetico difficilmente poi una madre può influire più di tanto. Assolutamente, assolutamente, non c'entra nulla nell'eziopatogenesi, cioè nella causa della patologia. È importante per la crescita, è importante per la riabilitazione, è importante per tutta un'attività strutturale che bisogna strutturare attorno al bambino, è importante per la qualità di vita dei genitori, ma è fondamentale, ma non per la causa, è tutta un'altra storia quella. Fabrizio Tonello, un'ultima battuta, secondo lei nemmeno questa strage, ennesima strage, riuscirà in qualche maniera a intaccare la potenza della lobby e delle armi negli Stati Uniti? Obama andrà al funerale, piangerà, abbraccerà i genitori, tornerà alla Casa Bianca e tutto finirà così? Purtroppo è molto probabile, perché la politica americana non ha ancora trovato uno schieramento sufficientemente energico, determinato a battersi per il controllo delle armi, e la mancanza di leadership di Obama da questo punto di vista è una delle cose più tristi della sua presidenza. Quindi anche un democratico non potrà mai essere eletto se non ha dalla sua la lobby delle armi? No, Obama non è stato eletto con l'appoggio della lobby delle armi, però non ha fatto nulla per combatterla, e ci sono anche in Congresso molti senatori e molti deputati democratici che non osano confrontarsi frontalmente con la National Rifle Association per timore di farsi un nemico troppo potente. Da questo punto di vista il fronte democratico e progressista negli Stati Uniti, che vorrebbe porre all'attenzione dell'opinione pubblica il problema delle armi come un problema di sanità pubblica e non come un problema di diritti costituzionali, è ancora molto debole. Beppe Neri, ecco, come ha detto Tonello, un problema di sanità pubblica. Ti sembra concepibile che la sanità pubblica sia legata alla lobby delle armi? Beh, io amo molto gli Stati Uniti, anche se dico ogni volta che ritorno in Italia non ci vivrei mai. Il problema è che questi fanno coesistere il secondo emendamento che dici tu, oggi, che sembra che abbiamo ancora i Seminole e i Sioux fuori dalla porta di casa e bisogna difenderci col Winchester, col fatto che hanno una sanità totalmente rigidamente privata, una sanità di classe per cui Medicare e Medicaid, che sarebbero la nostra mutua, aiutano soltanto gli anziani e i poveri e tagliano una serie di servizi, per cui anche quella che per noi è molto importante, che è la diagnosi precoce e l'intercettare i casi al loro nascere, è molto più difficile, perché anche in Italia le mamme degli psicotici li proteggono, li nascondono, ma il tessuto sociale, c'è un controllo sociale, un accesso ai servizi anche attraverso le scuole, al liceo, che consente almeno che qualche spia ogni tanto si accenda. Gli Stati Uniti questo sono molto indietro. Grazie Beppe Neri, grazie Luigi Mazzone, grazie Fabrizio Tonello, ci sentiamo domani.